Questa volta siamo veramente sconvolti perché abbiamo avuto un dialogo aperto con l'assessore Aitini e gli altri organizzatori di mercati contadini in città, e l'ultima volta che ci siamo incontrati era all'inizio novembre, proprio per concordare un protocollo che noi pensavamo, infatti, quando abbiamo letto gli anticipi sull'ordinanza e poi anche l'ordinanza stessa, che eravamo a posto, perché di fatto abbiamo un protocollo di sicurezza che ha tutti quei punti lì. E invece ieri sera molto tardi abbiamo saputo che c'è un inghippo tecnico, nel senso che non è un atto sottoscritto dal sindaco, per cui tutto il lavoro che abbiamo fatto per mettere insieme un protocollo insieme all'assessorato del commercio non conta niente. Quindi chiaramente stamattina abbiamo molte domande a cui vogliamo risposte. L'ordinanza c'è scritto che i mercati devono essere perimetrati, devono avere la presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita, una sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze, misure di questo tipo. Voi vi eravate adeguati, quindi? Sì, tutto questo era già in atto, per cui non capiamo poi se ci debba essere una stretta ulteriore per rendere più sicuri i mercati. Questo non è un problema, quindi veramente non capiamo, cioè abbiamo un genere alimentare di prima necessità che si compra all'aperto e non al chiuso. Non sto neanche a dire della differenza della qualità, eccetera eccetera, a livello di prevenzione, diciamo, parlando anche della salute. Però la cosa importante è che ci sembra, a livello di sicurezza per il coronavirus e la pandemia in corso, ci sembra completamente insensato. Non riusciamo a capire il perché di questa misura, perché non ci sembra che questo assicuri una sicurezza maggiore ai cittadini di Bologna in nessun modo. Come hai sottolineato, voi vendete cibo, cioè un bene di prima necessità. Vi sentite discriminati rispetto ad esempio dei supermercati che invece rimangono aperti senza problemi? Ma assolutamente. Per me la cosa più, diciamo, sconvolgente, forse a marzo era sconvolgente, adesso è nuovamente sconvolgente, è la scelta politica dell'amministrazione di Bologna di, se vuoi, scartare tutta la produzione locale alimentare. Questo a noi ci sembra, sia a livello, va bene, della sovranità alimentare, cioè la scelta di che cosa si mangia, allucinante, ma anche a livello della sicurezza alimentare in questo momento, perché non è detto che non ci sono inghippi nella grande distribuzione dovuti a questa pandemia, per cui ci sembra assurdo chiudere le porte di Bologna a tutta la produzione contadina che circonda questa città, collinarie, nelle pianure e tutto il resto, per lasciare marcire i prodotti che abbiamo in questo momento, che sono tanti. Qui veramente non vediamo nessuna logica politica. Che conseguenze economiche avrà questa decisione? Sarà devastante, potrebbe essere determinante per tanti tanti piccoli e medi piccoli agricoltori, tutta la produzione agricola non su grande scala lì intorno a Bologna, che dipende da Bologna per lo sbocco. Questa volta, in questa stagione, potrebbe veramente essere il colpo di grazia. E sicuramente i danni a partire da domani, dove chi ha la frutta, chi ha la verdura, chi ha in questa stagione qua ha bancali e bancali e bancali di cose, potrebbe essere veramente determinante per la vita di un'azienda agricola. Durante la prima ondata voi vi eravate attrezzati anche con le consegne a domicilio, riprenderete anche questo sistema? Questa informazione ci è arrivata ieri sera e molto tardi. Abbiamo il portale online pronto, sicuramente abbiamo bisogno di un giorno per metterlo in funzione. Sì, lo utilizzeremo, ma i volumi che ci possiamo permettere di questo servizio online sono molto più bassi, è molto molto più basso di un mercato, quindi ci sarà, però per forza di cose è un'operazione logistica non indifferente e siamo molto limitati a livello del volume dello sbocco che possiamo creare in questo modo.